Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti e ben sintonizzati sulle frequenze di Blu Radio Veneto per un'oretta domenicale in nostra compagnia. Intanto saluto Antonio Ceccato. Buonasera, ciao Gesi, un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Per chi lo desidera, ricordiamo la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. E poi salutiamo il nostro ospite, che stasera abbiamo un nuovo ospite che non è mai stato con noi e si chiama Durante Leandro. Buonasera signor Leandro. Buonasera a tutti. Ecco. E ben trovato. È un piacere di essere qua con voi. E benvenuto, benvenuto. Sì. E si scoprono talenti giorno per giorno. Nuovi e latenti, ecco, per quanto ci concerne. Ecco. Allora, prima di tutto ci ascoltiamo la prima canzone in programma e poi le daremo la parola. La prima canzone in programma si intitola Complimenti ed è interpretata da Stefano Sani. Un amico sincero più non c'è. Meglio un vino leggero, quello c'è. E sto in giro la sera a smaltire i miei guai e controllo se tu stai in casa o te ne vai. Complimenti, perché senza te non ci sto nemmeno un'ora. Non farmi naufragare in un mare di malinconia. Se mi guardo allo specchio, ci sei tu. Se mi fischia un orecchio, sempre tu. Nell'inferno di Dante io ti metterei, poi ti fermi a parlarmi un istante e un angelo sei. Complimenti, perché senza te non ci sto nemmeno un'ora. Ah. Complimenti, lo so, ho bisogno di te anche stasera. Cielo si chiama amore. Complimenti, perché ce l'ho fatta innamorarmi di te. Se un po' ti senti mia. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale diamo subito la parola. Signor allora, Leandro, allora ci racconti tutto. Intanto ci racconti qualcosa di sé. Allora, mi chiamo Leandro Durante, sono nato il 3 aprile del 40 a Ponzano Veneto e a Merlengo, dove tuttora abito e vivo. Sono sposato, ho 4 figli e 8 nipoti. Ah, ecco, una bella squadra. Una bella squadra. Sì. Mi sono scoperto, diciamo, poeta, a detta degli altri, da alcuni anni e da 3 anni faccio parte dell'associazione poeti dialettali e il SIL di Treviso, che l'attuale presidente è il dottor Bruno De Donà, ex giornalista del Gazzettino, ora mi risulta che sia in pensione. Ecco, così, e scrivo poesie in dialetto trevisan, e in italiano, e anche qualcuna dedicata allo sport, in particolare alla bici, perché tuttora pratico il ciclismo a livello diciamo non amatoriale, cicloturista, insomma. Cicloturista. Ecco, e ho coinvolto anche mia moglie, e ogni anno andiamo a farci un giretto. L'anno scorso abbiamo fatto il giro del lago di Ginevra in 3 giorni. Bello. Insomma, ecco, questa è un'attività sana. Ecco, quindi così continuiamo finché si può. Il Signore ci dà possibilità di poter fare queste cose. E ecco. A quanti anni si è scoperto poeta? Quanti anni aveva quando si è scoperto? No, sono 6-7 anni che scrivo poesie. Prima, non so, quando parlavo avevo ogni tanto la battuta facile in rima, capisci, ma così non avevo mai trovato il tempo, neanche pensato di scrivere poesie. Ecco, e adesso mi dedico un po' più di tempo, e quindi riesco ancora a fare qualcosa. Ma le poesie sue sono più che altro sullo sport o un po' di tutto? No, soprattutto ricordi d'infanzia, e quelle le scrivo in dialetto trevisano, insomma. Vabbè, ecco. Allora cominciamo ad ascoltarne qualcuna. Possiamo, per esempio, non so, una in italiano, elogio alla donna e madre. Bene. Che è dedicato a tutte le donne del mondo. L'avevo scritta in occasione della festa della donna. Elogio alla donna e madre. Donna, tutto si fa per te, tutto pur di piacere a te. Più o meno così è la canzone, scritta per amore e adulazione. Donna, sei bella, sei brava, sei gentile, adorabile e pura. Opera d'arte di Dio e della natura. Sei nata per essere mamma. Com'è bello vederti stringere al petto il frutto cresciuto in grembo con tanto affetto, custodito con trepidazione e amore, partorito con gioia e dolore. Meriti perciò ammirazione e rispetto. Non osi l'uomo considerarti un oggetto, vilipendere ed offendere la tua dignità, trattarti con sadismo e crudeltà. Non osi l'uomo celare il tuo dolce bel viso, nascondere il tuo gentile sorriso, colpirti nemmeno con un fiore, ma deve trattarti con dedizione e amore. E tu, donna, comportati con signorilità, difendi la tua nobiltà e femminilità, agisci fedelmente e sia onor te stessa, sarai sempre e ovunque la principessa. Bene. Una bella considerazioni anche sociali, oltre a diciamo una bella odia alla donna, di natura, proprio di apprezzamento, diciamo, per il ruolo così, fondamentale. La mia opinione sulle donne. Bene, bene. Benissimo. Ecco. Procediamo pure. Procediamo. Sì. Adesso un'altra, per esempio, l'amore universale. Questa è un po' polemichetta, ma comunque l'amore universale. E no, un mattino ero affacciato in marzo dell'anno scorso alla finestra del bagno, e era sull'albeggiare, no? In marzo. Ah, bello. Ho sentito un merlo cantare a squarciagola, si può dire, no? Mm. E cosa faceva? Cercava una compagna. Allora, e così mi è venuta sta poesia qua. Un becco giallo, che è il merlo, innamorato, sull'alto ramo appollaiato, già sul far del giorno, e fonde il suo canto attorno. Le dolci melodie affidate al vento si spandono nell'aria in un momento. Una compagna va a cercare per potersi con lei accoppiare, per tramandare prole come da sempre natura vuole. Da cotanti suoni affascinata, lei risponde alla chiamata e si lascia avvicinare ed infine ad amaliare. Così ad ogni fine inverno, fin dai primordi ed in eterno, si rinnova il dolce rituale dell'amore nel regno animale, che è anche l'amore universale, il cui fine è di continuare la specie a preservare. Solo l'umano, saccente, sfrontato, arrogante, strafotente, per puro egreto edonismo, spinto dal suo egoismo, l'ordine naturale stravolge, convinto che solo così la società si evolve. e dopo finisco che casino, mi sono permesso di dire, cioè che caos, insomma, è efficace come termine, purtroppo. Bene, possiamo proseguire con qualche altra poesia. Adesso ne avrei un'altra dedicata a mio padre, che è morto in campo di concentramento nel 44 in Germania. Mamma mia. Era un soldato di quelli presi, fra i 650.000 che sono stati presi nelle caserme e portati in Germania sui carri bestiame. 44, lei era un ragazzino. Io avevo, quando l'hanno preso, era appena tornato dalla licenza e mi ricordo, ero montato sulla, era il 43, fine agosto penso, perché era venuto a casa in licenza, per, siccome faceva il contadino, per fare un po' di lavori nei campi, e dopo è tornato Vittorio Veneto e mi ricordo l'ho rincorso, piangevo che non volevo che andasse via, avevo 3 anni e mezzo, non ancora. E mia madre a piedi, io sono salito sulla canna della bicicletta, che lui andava via in bicicletta, e mi ha portato fino davanti alla chiesa di Merlengo, che dista 300-400 metri da casa. E non ho paura, torno e dopo così non è più tornato. E ora mio padre Abele, e quando lo leggo mi prende un po' comprensibilmente. Comunque dicevo prima allora che dopo 49 anni sono riuscito a trovare dove sono i resti, sono nel cimitero. Un cimitero esterno a quello di, uno dei cimiteri di Francoforte in Germania, dove ci sono 3.400 spoglie di soldati morti nei concentramenti. E come ha fatto a trovare? C'era il nome? Sì, l'ho trovato tramite uno da Merlengo che era stato anche lui internato e mi ha messo in contatto con l'associazione ex internati. Tramite il Ministero della Difesa da Roma mi hanno mandato la pianta del cimitero e la storia di come degli accordi fra De Gasperi e Adenauer nel 54 hanno fatto sto cimitero. Allora, a mio padre Abele, mi torna alla mente, mio caro papà, ero ancora piccolo in tenera età. Si è rimasti soli una mattina, la mamma, io e la mia sorellina. Quando a causa una guerra infame ti hanno messo su un carro bestiame, ti hanno vilipeso ed umiliato, ti hanno insultato ed affamato, ti hanno trattato con gran viltà ed hanno offeso la tua dignità. Su un lager ti hanno concentrato e da lì non sei più tornato. Nelle rare foto della tua prigionia, due commilitoni ti fanno compagnia, visi tristi e macciati e smunti, vestiti logori, sporchi e consunti. Nelle due lettere che hai inviato, speravi che presto saresti tornato. Quanti stenti, quante pene hai patito finché il tuo corpo ha resistito. Solo, in silenzio, te ne sei andato, in terra straniera, imprigionato. Tanti compagni hai visto soffrire, tanta gioventù hai visto morire. Ricordo in casa quanta mestizia il dì che giunse la ferale notizia. Era i primi di gennaio del 45, con la neve per terra. Mamma mia. Era del 45 i primi giorni, la neve copriva paesi e dintorni. Mia madre e i nonni disperati, parenti ed amici addolorati. Per anni ho visto la mamma soffrire, poi il tempo tutto ha fatto lenire. Le tue ossa da pietose mani raccolte giacciono ora ordinate e sepolte nel cimitero di guerra di Francoforte con altri che hanno avuto la tua stessa sorte. Migliaia di spoglie sono lì inumate, in file lunghe e ben curate, un blocchetto di pietra squadrata, una targa col tuo nome e una data. Riposa in pace, caro papà. Spero di ritrovarti nell'aldilà, dove regna pace e tranquillità, e staremo insieme per l'eternità. Ecco, non servono altre parole naturalmente per questa profonda emozione. Passiamo quindi al prossimo brano musicale di Tiziana Rivale, Sarà quel che sarà. Ci crederei perché ci credo. dirmi t'amo, sarai ancora tu. La mia dolce gelosia ti terrà un po' compagnia ogni volta che andrai via. Eccoci di nuovo in studio con il signor Leandro, al quale affidiamo la prossima, diciamo, tranche di poesie, di composizioni, allora, sui vari argomenti. È intitolata Le Triestine, il giorno del ricordo. Dovrei fare anche una breve cronistoria, se è possibile. Già nel corso della Seconda Guerra Mondiale, dopo la sconfitta delle truppe italiane e germaniche, che avevano invaso anche la Jugoslavia, nella Dalmazia, nell'Istria, nella Venezia Giulia sono arrivati i partigiani comandati dal compagno Tito. Le conseguenze per le popolazioni di origine italiana sono state dolorose e tragiche. Poi nel maggio del 1945 le stesse truppe del maresciallo Tito sono entrate in Trieste, mentre gli anglo-americani sono entrati nel giugno dello stesso anno. In seguito a quegli eventi sono dovuti fuggire oltre 300.000, qua parlano addirittura di 350.000 giuliano-dalmati, in fretta e furia, con qualsiasi mezzo, con poche cose che riuscivano a portarsi appresso, lasciando case e tutto ciò che possedevano. Sono stati accolti in appositi centri in Italia e poi smistati in tutto il territorio nazionale. A Merlengo sono arrivate nell'agosto del 47 due sorelle che ho conosciuto, che erano fuggite da Parenzo in Istria. Si chiamavano Filomena, detta Mima, classe 1894, e Lucia, classe 1900. Sono state ospitate a cura del comune di Ponzano Veneto in una dépendance della Villa Corner, Villa Nina, di fronte alla chiesa di Merlengo, allora di proprietà del signor Pavan Ireno, ora Mario Basso. Allora Merlengo era un paese dedito in prevalenza all'agricoltura e quindi un po' chiuso. Inoltre la propaganda di allora faceva credere che gran parte dei fuoriusciti fossero ex fascisti che erano fuggiti per paura dei comunisti titini dal paradiso dei lavoratori. Le due sorelle, che si portavano dentro il peso della tragedia in cui si erano trovate senza alcuna colpa, soffrivano per questa mancanza di solidarietà da parte di noi di Merlengo e in cuor loro speravano, illudendosi, di poter un giorno tornare nel loro paese. Poi con gli anni si sono adattate e la gente ha avuto nei loro confronti un atteggiamento di maggior rispetto e comprensione. Lucia è morta nell'80 all'età di 80 anni, mentre la Mima è mancata nel 1988 all'età di 94 anni. Sono sepolte entrambe nel cimitero di Merlengo. La commemorazione del giorno del ricordo e della memoria mi ha fatto tornare in mente la loro triste storia, per cui mi sono sentito in dovere di ricordarle e chiedere loro scusa per la poca sensibilità e comprensione dimostrata all'inizio nei loro confronti da parte della popolazione di Merlengo e anche da noi ragazzini di allora. Infatti i ragazzini, insomma, se non sono educati, sono crudeli. Qualche volta si facevano anche qualche dispetto, mi ricordo. Allora, le Triestine, il giorno del ricordo. Da Parenzo in Istria erano scappate, accolte in Italia come sfollate. Sono arrivate qui a Ponzano con poco o niente in mano. La casa e gli affetti avevano dovuto lasciare se la pelle volevano salvare, alla fine del devastante conflitto, per sfuggire al compagno Tito. Istriani e dalmati costretti a fuggire a migliaia, in fretta, per non finire nelle foibe uccisi barbaramente. Poi per anni non si è saputo niente. Volutamente ignorati nei libri di storia, or si celebra il giorno della memoria. Ricordo, ero ancora bambino quando le vidi un giorno settembrino. Lucia e Mima, due gracili sorelle di una certa età, ormai zitelle. A Merlengo hanno trovato sistemazione, Villa Corner, per molti anni la loro abitazione. Le vedevi insieme passeggiare con in cuor la voglia di poter tornare, il viso segnato da tanta tristezza, con l'aria di chi non ha certezza. Erano tempi di insufficiente cultura nei paesi di campagna dediti all'agricoltura. Gli estranei visti con diffidenza e sospetto, trattati forse senza il dovuto rispetto. Poi, col trascorrere degli anni, la speranza, la nostalgia e gli affanni hanno dovuto lasciare il posto alla rassegnazione e allo sconforto. Col tempo si sono adattate e quei locali si sono integrate. Da anni ormai sono mancate e nel cimitero di Merlengo inumate. In questo giorno della memoria, di cui si è presa cura finalmente la storia, è doveroso ricordarle con affetto, scusandoci se abbiamo loro mancato di rispetto. Anche questa è storia. Bella sei storia. Storia sì. Adesso prego, sì. Avrei mio padre erano sei fratelli, dei quali quattro erano militari. Uno in Russia, l'altro con la divisione Folgore e paracadutista in Libia, e un altro in Germania, era qua in Jugoslavia, anche lui è andato a finire in campo concentramento in Germania. Che quello della Russia, che è ancora vivo, era classe 1921, ha 96 anni, ancora corre in bicicletta con la pedalata assistita. Però, si chiama Edoardo, era quello che gestiva il bar osteria al Spin a San Pelaio. Mm-hmm. E dopo ecco, e ha fatto la ritirata in Russia, è stato salvato da un commilitone che se no sarebbe... Allora, l'Armir e la ritirata in Russia. L'Italia è in guerra già da 2 anni, battaglie di truppe e tanti lani. Il fronte russo bisogna rinforzare, l'ottava armata si deve formare. Si chiamava l'Armir. Si danno da fare i gran generali, chiamando raccolta gli ufficiali. In fretta e furia crea l'Armir, migliaia di militi sono pronti a partire. Alpini, fanti, bersaglieri e altri soldati, parte la lunga tradotta carica d'armati. Ardore e baldanza di giovani ignari, che lasciano a casa gli affetti più cari. Mamme, spose e fidanzate, in ansia, in pena e preoccupate. Quanti saluti, quanti baci, quante lacrime, quanti abbracci. In Ucraina li fa arrivare e sul Don si devono attestare. Attacchi, battaglie, cannoneggiamenti, lotte cruente tra opposti contendenti. Il freddo inverno è ormai inoltrato, tormente di neve è tutto ghiacciato. Natale drammatico per i combattenti, morti, feriti e pochi rifornimenti. Arriva l'ordine, bisogna scappare, incominciano le truppe a ripiegare. Inizia così del Don la gran ritirata, tragico epilogo di un'avventura mal iniziata. Fu in disordine i poveri soldati, arti congelati, corpi straziati, bombardamenti, accerchiamenti, inseguimenti, sfinimenti, patimenti, urla e lamenti, nostalgia per la casa e di parenti, per gli amici e i propri cari, di corsa sulla neve ansimando tra gli spari. Quante preghiere, voti, invocazioni salgono al cielo in simili situazioni. Mamma, madre santa, aiutami tu, non lasciarmi morire qua giù. Troppi pochi ne sono tornati di coloro che sul Don erano arrivati. Quanta gente è rimasta laggiù e da casa non è tornata più. Quanti lutti, quanti pianti. Basta guerre e poi rimpianti. Viviamo in pace e in armonia per sempre e così sia. Ah sì, sarebbe veramente auspicabile. Sì, anche la guerra era la sì. Grande follia, un grande inganno, esatto. Dove molti hanno derivato purtroppo. Quelli volta... che vivevano di guerre. Esatto. Ecco. Cominciando. Andiamo avanti. Sì, vada pure avanti. Sì. Una delle, sullo sport. Sullo sport va benissimo. Importante che riguarda un po' tutti. Un messaggio rinfrancante. Lo sport impegna, lo sport insegna a vivere onestamente, a comportarti correttamente. Dai vizi ti tiene lontano, ti avvicina al genere umano. Lo sport è costanza e fatica, ti fa incontrare gente amica. Ti tempra il corpo e ti rafforza, ti infonde vigore e forza. Fallo al chiuso o all'aperto, anche se non sei un esperto. Ti allunga la vita, ti dà gioia infinita, ti aumenta in te l'autostima, anche se non arrivi in cima. Fai sport con perseveranza, senza usare alcuna sostanza, che ti dà la sensazione di essere un campione, ma che a lungo andare suo schiavo ti fa diventare. Lo sport è passione, non solo competizione. Fai sport per sport, lo sport è allegria, lo sport è armonia. Mi pare che sia assolutamente condivisibile, è proprio una sintesi di quello che dicono anche i medici, oltretutto. Esatto. Ecco, benissimo, allora noi passiamo al prossimo brano musicale dei Pooh, Uomini Soli. Viaggia e va a telefonare col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nel Corriere della Sera, nel vale vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tagli, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità, si è detto che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e genosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Sete d'avventura, perché han studiato da prete o per vent'anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro, e cambiarne un po' per noi, ma Dio delle città. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro Antonio. Naturalmente abbiamo il solito siparietto, che è Storia de che altri, nel quale naturalmente cercheremo di dare conto al fatto che ci siano delle barriere linguistiche, ma non delle barriere di sentimenti e di emozioni. Questa volta abbiamo di Marcos Ana, un poeta spagnolo nato nel 1920 e che ha passato 23 anni in prigione durante la dittatura franchista, Mi casa e mi corazón. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, abierta siempre a los hombres, al sol y al aire, que entra en la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, el campo, sus verdes mástiles, que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina, el vuelo, ni el amor, sus labios, nadie. La casa y el corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Mia casa ed il mio cuore. Se un giorno tornerò alla vita, la mia casa non avrà chiavi, sempre aperta, come il mare, il sole e l'aria. Che entrino la notte, il giorno, la pioggia azzurra, la sera, il pane rosso dell'aurora, la luna, mia dolce amante. Che l'amicizia non trattenga il passo sulla soglia, né la rondine il volo, né l'amore, labbra, nessuno. La mia casa e il mio cuore mai chiusi. Che passino gli uccelli, gli amici, il sole e l'aria. Ecco qua. Allora passiamo al nostro amico Leandro per un'ulteriore tranche di questa serata. Allora, sempre dedicata allo sport, in particolare al ciclismo. Ho immaginato di fare un giro in bicicletta della marca trevigiana. Allora, amici della bici, dedicato a tutti gli amici che condividono la passione per la bici. Che bello andare in bici se pedali con gli amici, se ci metti un po' di fantasia, lei per il mondo ti porta via. Non serve un gran talento, basta spingere a cuor contento. Vai vicino, vai lontano, all'ambiente tu dai una mano. Percorri solitarie strade di campagna, tutto intorno la natura ti accompagna. Nel piano per valli e per monti, l'importante è essere pronti. Che bello la domenica pedalar e panorami fantastici a mirar. Quanti bei posti potrai visitare se nelle nostre contrade ci verrai a trovare. Nella marca gioiosa et amorosa devi venir, sarà una gran cosa. Troverai le tracce di Roma antica, noi abbiamo la postumia romana, e della Repubblica di Venezia amica. Nella bella Treviso potrai sostar di piazze e palazzi la vista deliziar. Da qui, passando per Ponzano, per Sant'Andrea e Povegliano, per Arcade e per Spresiano, coi manubri sempre in mano, altri luoghi andrai a incontrar e le rampe del Montello potrai scalar. Girerai per la nostra amata terra che le lotte ricorda della grande guerra, dal sacro Piave a Nervesa della Battaglia all'isola dei morti in quel di Sernalia. Se ancora voglia hai di pedalar, per Castelfranco potrai passar, e circondata da antiche mura, qui il Giorgione rivoluzionò la pittura. Se transiterai poi per Maser, la palladiana villa di ti potrai goder, e potrai salir sui coli asolani, ove la regina Cornaro regnò per anni. Per poi a Possagno poterti fermar, le opere il Tempio di Canova a visitar, sul Monte Grappa da cui salirai ed il Sacrario in cima troverai. Raccogli le spoglie della miglior gioventù che dai suoi cari non torno più. Scendendo vedrai verso il piano le alture di Valdobbiadene e Conegliano, con rigogliose rive di viti scoperte, dove il prosecco, fatto da mani esperte, spruzza bollicine e, bevuto in compagnia, ti metti in corpo tanta euforia. Incontrerai i piedi della collina l'antica abbazia di Folina e Vittorio Veneto, ove si coprirono di gloria i nostri fanti cantando Vittoria, del 1918. Oltre a Oderzo, Motta e Moliano, potrai spingere lo sguardo più lontano, altri vecchi borghi visiterai e splendide ville venete scoprirai. Puoi infine lanciarti sui passi dolomitici che Coppi e Bartali han reso mitici. Il Pordoi e il Falzarego andavano a scalare e tutti gli italiani facevano sognare. Negli anni del secondo dopoguerra, quando l'Italia era ancora a terra, ma la gente laboriosa e con passione riusciva a migliorare la triste situazione. Avete notato, miei cari amici, quanti bei ricordi ci risveglia la bici, pedalando sempre in armonia, tutti insieme in compagnia. Andando in bici incontriamo sempre nuovi amici, passando insieme dei bei momenti, vivendo sempre sereni e contenti. Ode alla bicicletta. Sì. Molto molto bello. Adesso, se mi è concesso, ne avrei una dedicata al sindaco di Crocetta, perché nell'estate del 1910 era nata una discussione, diciamo, perché la gente del posto si lagnava perché c'erano, la domenica, se vai sul Montello, specialmente dietro sulle panoramiche, ci sono flotte di ciclisti, una roba impensabile se uno non pratica quelle zone lì. Certo. Allora era nato gli abitanti delle strade dicevano che siamo indisciplinati, che... Allora io ho mandato questa poesia e dopo naturalmente gli altri sindaci dei Montelliani si sono accodati e era nata una diatriba. Sì, ecco. Sì. Allora, dedicata al signor sindaco, l'ho mandata questa qua via email al signor sindaco di Crocetta, con una dedica anche, che adesso qua non leggo. Dedicata al signor sindaco di Crocetta del Montello, provincia di Treviso, e a tutti i ciclisti e cicloturisti che transitano per le strade del Montello. Sarebbe intenzione del sindaco di Crocetta, a chi passa per il comune in bicicletta, il transito per le strade limitare perché troppe corse, dice, deve sopportare. C'erano anche gare proprio, insomma, la domenica. Altri sindaci montelliani gli danno ragione ed ecco che è partita la discussione. Ma signor sindaco, è vero quel che dice? Chiunque al suo posto sarebbe felice. Flotte di ciclisti intenti a pedalare, le bellezze del Montello ad ammirare. Forse a volte si è un po' indisciplinati correndo per la strada magari appaiati. Ma non veniamo ad inquinare, tantomeno le strade a rovinare. Pedalare è uno sport bello e sano e all'ambiente noi diamo una mano. O preferisce un traffico rumoroso, inquinante e più pericoloso? Non veda solo i lati negativi, colga i molti aspetti positivi. Se guarda in faccia chi passa in bici, persone e amiche vedrà e volti felici. Tanta gente di tutte le età contenti di pedalare in libertà. E tu, questa viene a noi ciclisti, e tu ciclista comportati bene, perché soprattutto a te conviene. Per terra non gettare mai niente, abbi il massimo rispetto per l'ambiente. Non sei della strada tu il padrone. Non comportarti davvero caffone, così non farai più arrabbiare l'automobilista che non sa pazientare. E lei, signor sindaco di Crocetta, se può, vada un po' in bicicletta, mi creda, pedalare è bello, soprattutto per le strade del Montello. Ci lasci quindi ancora passare, vedrà che ci saprà ben comportare, spero almeno. La ringrazio per avermi fin qui letto e la saluto cordialmente con rispetto. Simpatica. Un ode civile, naturalmente, ecco, quell'accenno richiamo ai ciclisti appaiati, io lo trovo molto opportuno, anche perché trovo che sia pericoloso soprattutto per i ciclisti quando si va appaiati a due, anche a tre, a volte si occupa tutta la carreggiata, e questo ritengo che sia notevolmente pericoloso. Io sto attento, ma purtroppo, e quindi è un credo un atteggiamento da evitare, alle volte siamo anche appaiati perché quello che è in testa si sposta ma è comprensibile, diciamo, se arriva la macchina in quello, cosa fa? Se uno capisse non suona, no, se è uno impaziente ma risuona e ti fa anche i versacci, ma anche per chiacchierare forse vi appaiate per scambiarvi le idee, insomma, così. In dialetto trevisano. Allora, batter marzo, c'era un'usanza, almeno quando ero piccolo io, il primo di marzo, di battere, appendere dei ferri e battere per credo che sia di origine pagana. Presumibilmente qualche lascito. Abbiamo parlato ancora. Batter marzo, ricordi d'infanzia. È il primo dì del terzo mese, col vento che fischiava fra i siese, in campagna no altri tosatei, se piccava i gomieri e coi martei, se pestava con forza e dei gran lena, ripetendo una vecchia cantilena. Marzo, marzo, marziol, butta fora l'erba partofiol. All'aria fredda tutti ingiassai, coi recce e naso più rossi che mai. Tutto il pomeriggio restaimo fora, anche se da Trieste tirava a bora. A volte arrivava da lontan, portai dal vento altri tantan. I veniva dai vari colmei, a battar marzo gli era altri putei. Convinti che l'erba costi tantan crescesse al manco un palmo de man. Ne avvigna intanto drio il fiar e il contadin era intento a bruscar. Battea e ore era oio de accesa, covava il nier a merla ne assiesa. Cantava i gaine, sbagliava i cani, altri canti e soni si sentia lontani. Al tramonto, stufi e affamai, se tornava a casa tutti i raffreddai. Se si metteva vicino al foghetto e parsena, puenta e museto, era ancora i cugini di Piera, con i sergi, a legna e con il serbatoio. Con la vasca per l'acqua calda, che fumava continuamente. Gli era tempi davvero da magra, poco magnar, tanta peagra. Ma l'aria buona e un fiato di allegria ti infondea fiducia e armonia. La gente era semplice e operosa, lavoratrice, buona e generosa, sempre disposta a darsi una man, a avere rispetto del sindaco e del pioan, cioè delle autorità. Sì. Beata semplicità. E in effetti questo è un ritratto dell'epoca contadina, quando ancora eravamo una comunità. Adesso siamo diventati una società. Un'altra breve che poesia. Che non si parla più. Sì. È il Porsai di Sant'Antonio. Oh, ecco. Allora, sui paesi... E che era questa tradizione, questa usanza, che il prete comprava un maialino piccolo, un porseto, e io facevo tutto un elenco delle famiglie dove che doveva andare, e stava una giornata, due al massimo, su una famiglia, che dava la mangiare, e dopo a sera io portava su un'altra famiglia, là, ecco. E il porsello di Sant'Antonio. Negli anni 40 e 50 del secolo scorso la fame era tanta, tempi di vacche magre e di povertà, gente col sacco che andava a carità. Chi non aveva campi da coltivare, a fine mese faceva fatica arrivare. E era poco lavoro e i disoccupati avevano i fiori quasi sempre affamati, mi ricordo me. E Cese che aveva sempre bisogno dei lavoretti, ma i preti di campagna erano poveretti. Così per tirare su qualche scheto, in primavera comprava un porseto. Porsel de Sant'Antonio e si chiamava, e i parrocchiani a turno lo ospitava. Sotto una pianta ligata con una caenea, vito e alloggio da tutti riceveva. Trattava come un ospite di riguardo e continuava a metter su lardo. Certo, non stava tanto a pensare cosa che dopo che poteva capitare. Verso sera su un'altra famiglia lo portava, intanto lui il mangiava e si ingrassava. E quando l'inverno gli era forte, gli era diventato bello grosso e forte. Pare il Piovan, un bel patrimonio, sto porsel di Sant'Antonio. Una lotteria in parrocchia lo organizzava e un grossoetto di scheie l'incassava. Chi aveva fortuna di essa sorteggia, o lo vendea, o lo avria copà. Per ricavar buoni salami e musetti, uane, brisoie, costesine e osseti. Così finia l'avventura del poro porseo, portando in parrocchia qualche scheo, e su una famiglia un po' di felicità, pare il ben di Dio che gli era arrivato. Okay. Allora la canzone adesso. La passiamo, sì, alla canzone. Aleandro Baldi che canterà Passerà. Le canzoni non si scrivono, ma nascono da sé. Sono le cose che succedono ogni giorno intorno a noi. Le canzoni basta coglierle, ce n'è una anche per te, che fai più fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesia, sono inganni come pillole della felicità. Le canzoni non guariscono amori e malattie, ma quel piccolo dolore che l'esistere ci dà. Passerà, passerà, se un ragazzo e una chitarra sono lì come te città a guardare questa vita che non va, che ci ammazza di illusioni e con l'età delle canzoni passerà su di noi, finiremo tutti in banca prima o poi, col perché e chissà, le angosce di una ricca povertà. Parlare degli amori che non hai, a cantare una canzone che non sai come fa, perché l'hai perduta dentro e ti sempre ultimo e per chi si dice addio, per chi sbatte negli ostacoli della diversità. Le canzoni sono lucciole che cantano nel buio, passerà, prima o poi questo piccolo dolore che c'è in te, che c'è in me, che c'è in noi, che ci fa sentire come marinai in balia del vento. Di nuovo in studio con il nostro ospite, il signor Aleandro Durante, il quale ci leggerà ancora qualche poesia. Allora, sempre in dialetto, i dialetti di Treviso e dintorni. Andiamo o restiamo? Dimmi cosa facciamo? Questa zena locuzione per poter fare un paragon col modo che se aveva di parlare quando a televisione doveva ancora arrivare. Dito in Trevisan più o meno, demo o restiamo? Dimmi cosa facciamo? Nel me comune che era un detto che così recita nel nostro dialetto Marlengo, Paderno e Ponsan, tre paesi che se dà a man. A me sta semplice espressione a me dà una gran emozione, ma se arrivo in tricolor pino me batte forte il cuor. Se andando verso il montel te passi per qualche colmel, magari per dir che ne so Sant'Andrà, Povejan o Camaiò, fermati a fare una ciacquata, ti sentirà come che sei cambiata. Lori dice, don o ston, dimmi cosa è o che fon. Arcade che aveva un compare, e gli era un spasso sentirlo parlare. Se che gli era da lavorare, dene o stene, e gli diceva, cosa fene, tacchene. Se par giavra e vuol pago passemo e a Monte Beuna se fermemo, de sicuro ne può il capitare di sentir tutto un altro parlare. Par non dir de signoressa e Trevignan che gli fa tutto uno come usan. E si esprime così, donti o stonti, cos'è o che fonti? Insomma, come che se può capire, in giro per i paesi si può ancora sentire le stesse frasi dite in sento maniere diverse che col talian in parte zendai disperse. I nostri fioi, i nostri nevodi, noi si esprime più in sti modi, adesso parla in italian e in inglese e col tempo forse in arabo e cinese. E dei nostri dialetti ben poco resterà, ese proprio un vero peccato, perché il dialetto fa sia parte della nostra cultura che attenea a gente unia e più sicura. Questa è una grande verità, effettivamente, la dispersione dell'identità e della cultura, esatto. Che si può sempre recuperare per, appunto, per quanto pochi ci siano di esperti e di appassionati, diciamo, adesso, cultori del adesso settore. Vorrebbero farle insegnare anche in Veneto. Esattamente, sì, abbiamo appena sentito che non è che sia così agevole e così semplice. Sì, comunque delle altre regioni non, il dialetto non è che sia tanto... Qui è un fatto anche identitario, diciamo. Appunto. Allora, un'altra è il pupasso de neve. E questa è de lunedì 4 gennaio del 16, cioè un anno fa. Messo al sa stamattina e qui oggi ancora in sonai, ho dato fuori una sbicciadina. Go visto de neve una spussadina. Che bea sorpresa mi son dito. Dopo più di 2 mesi senza piova, de colpo, campi, giardini, querti delle case, strade e marciapiè, tutto sotto un candido manto che imbiancava tutto quanto. Mi sono ricordato che ero ceo, così armate, baia e resteo, gosco mi sia a neve a ingrumar, e un pupasso mi sono messo a far. Dopo un po' mi sento saiudar, era Lori e Edo i miei nevodetti, che i segavea e sa presto dai letti, invece di restare al caldetto, i mega aiuta a fare il pupassetto. Niente di artistico a dire la verità, e il pareva un momento sentà, con in testa una baretta di traverso, do olive verdi al posto di oci, par naso un tocchetto di legno, do pigne de magnoli a pascarponi, par pipa un rametto in bocca, una maglia nera indosso e sui fianchi do bastoni infiai che parea do brassi al sai. I do cani, Roy e Sly, là a guardarmi davanti cucciai, sui rami un petiroso e do merli a cinguettar e do tre tortoree a curiosar. Pi tardi a lavori finì, anche Albi e a Marta se uscii, che bello vederli insieme giocare, so a neve corre e saltare. Gabastà 3-4 schei di neve e un modesto pupassetto per farli alzare presto dal letto. e venire fuori all'aria fresca che li tempra e li fa star bene. Guardando il pupasso, uno me fa: «Nono, e se là qui brassi verti e par che il voglia chiamarmi e che il voglia abbracciarmi». «Se è vero che fa su me, e se è il vostro nono che il dice, vieni qua, che vi voglio a tutti un gran ben e spero che andate sempre d'accordo e vi auguro tanta felicità e una bella vita di pace e di serenità». Ecco, lunedì 4 un augurio condivisibile, sì, decisamente, sì. Ecco. Qua che so, dei personaggi interpreti, visto che ho scritto, se posso, naturalmente, personaggi interpreti in ordine di apparizione: Lori e se me ne vado Lorenzo, Edo suo fratello Piceo Edoardo, Albi me ne vado Alberto, cugino dei primi due, Marta sorella più grande di Alberto, Roy il pastor tedesco che mi fa un sacco di maiani, Sly il pastor belga col peo nero, un tipo tranquillo ma con una paura matta dei temporali, dei sciocchi, dei petardi, è vero. E dei fuochi dell'ultimo dell'anno e della sagra. Mica ne so qualcosa perché avevo proprio un pastore belga. Petirossi, Merli e Tortorei, amici occasionali, sempre graditi ospiti. E questa è quasi la fotografia. Ecco. Pure la campagna, quante belle grande cose che dà. Sì. Quante belle cose. A famiglia contadina. In campagna, dopo la seconda guerra, la maggior parte lavorava ancora a terra, che era poche case sparse e occupate da famiglie numerose allargate. Sono nato su una di queste in aprile del 1940, anno bisestil, poco prima che il Benito, sto teston di un duceto, plagià e insinganà dal mato spirità col baffetto, facesse entrare l'Italia in guerra convinto di conquistare l'Europa intera. Sapevamo tutti come che andava a finire e quanta gente che andava a morire. Così, alla fine di questa brutta storia, mi sono trovato, sono una famiglia allargata ma senza papà, con una sorella picea e mia mamma tutto lì che piangeva. Il fatto di essere in famiglia ne ha salvato, perché gli era tanta solidarietà da parte dei miei zii e dei miei nonni, che ne ha tenuto insieme tanti anni, facendomi crescere con principi sani. Ne ha insegnato a darsi da far e tante arti e mestieri imparare, a lavorare sempre con passione, a saper fare degli attrezzi e riparazione, i picei, i vecchi ad aiutare e tutti insieme in cucina a mangiare. Ricordo a gente torno a Toia, eravamo in 21 in famiglia, dopo la guerra, sì. Ricordo a gente torno a Toia, sentata, a puente sul tagliare appena saltata, col piatto, sul piatto quel poco che bastava, ma roba sana e buona che saziava. Insomma, famiglia contadina, nella sua semplicità, stava maestra di vita e ne ha insegnato di comportarsi onestamente, di aiutare e avere rispetto della gente, e che prima di vantare diritti, te gada a solva i tuoi doveri. Peccà, col tempo e robe se cambiae, e famiglie se sempre più desfae, giornali, internet, radio e televisione porta pa' e case sempre più confusione. I pochi fioi a volte soi e abbandonai da tutti sti cattivi maestri abbindoai. E il mondo andando avanti di sto passo, penso che avrà un gran sconquasso. Sì, anche questa è condivisibile, sì, come visione d'insieme. C'è ancora tempo? Sì, ancora un po' di tempo. Allora, ho notato un po' da alcuni anni che in campagna sta radicando le siepi. Era un bene argomento a cui sono molto sensibile. Dopo se la niemo perché Isidrio deve stare a foresta dell'Amazzonia, ma qua siamo Dio che il poco di verde che abbiamo deve stare continuamente. Esatto. E chi se che lo cava? I contadini, chi doriessa, quei che i tutori e i custodi dell'ambiente della campagna, invece li cava perché io a fare a monocoltura e soprattutto se no è brusa. L'incentivazione. Esatto. No, che era le cose che gli davano anche un... Gli davano anche a scaisca. Che per siepi, per tenerle. Prima per tenerle, dopo per cavarle. E ora, assieme che siese a campagna, che c'è sempre un signor chi che sia, che pare siese che ha una vera fobia. Appena io una ne vede, zac, la taglia so dal piede. Oh, che bella soddisfazione, e ga a pagare a sua passione. Pore piante senza pretese, tutte a terra le gastese. Le riduse po' a tocchetti e il fa senere dei rametti. E c'è pai e il fa estirpar e raise dal suo strappar. Così lo sempio se compio eliminare il nemico e il gaffinio. Ma perché tanto accanimento? De quel verde forse non te eri contento? No, così è gaffinio de brusar e me colture a danneggiar. Ma te rendi conto cosa che te ha fatto? Che patrimonio l'ambiente te ha sottratto? spogliando dei siesi a campagna, se te che pensi, nessun che guadagna. Ricordati i nostri vecchi contadini, scarpe grosse sì, ma servei fini. L'importanza dei siesi che aveva capito e tutte le campagne che aveva impenio, codofie a cavalli dei confini, rifugio per insetti e uccellini, barriere contro il vento e l'arsura, posti ameni e freschi ne a caura, fornitrici di legna per i fogoari e pai e tutori per le vide nei fiari, habitat ideale per gustosi ciodetti che in autunno spunta fra i sottronchetti. Picco e osi in mezzo alla pianura, microclima utile all'agricoltura, produttrici di ossigeno e aria pura, che ben che fa l'uomo e la natura, che insieme smorsa il rumor e profuma coi zei in fior. Esconde a vista coi verdi foglie, musica dal vento tra le fronde sproglie. Fronde spoglie. Pensa che funzione importante, ti invece, senza pensare un istante, per paura di perdere un po' del raccolto, ti agisci in modo incosciente e stolto. Così non spunterà più i fiori del bianco spino, che per primo annunziava la primavera. Non ti sentirà più cantare gli oseti, che adesso non sa più dove andare a posarsi per nidificar. Non ti vedrà più ave a siami tornar, sui graspi profumati dei fiori di gazia, e il dolce nettare a ciucciar. Terra brusata e a campagna te farà, comportandoti così, ma te pentirà. Fermati, ti sei ancora in tempo se te vuoi, non pensare solo agli affari tuoi. Asse che siede a campagna, a comunità tutta che guadagna, impiantene ancora possibilmente te che farà cosa grata a te e all'ambiente. Sì. Non possiamo far altro che ringraziare per questo manifesto di amore per la natura il nostro ospite Leandro Durante e naturalmente dare appuntamento ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per la prossima domenica. Addio piacendo alla prossima volta. Grazie ancora. Grazie ancora. A voi, grazie, grazie. E grazie per l'ospitalità. E chissà che ci sia un'altra volta. Speriamo. Allora salutiamo tutti i nostri ascoltatori dando appuntamento appunto come dicevamo a Dio piacendo domenica prossima. Ciao a tutti e come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.